cambio una maglietta distratta. Non provi angoscia o inquietudine per tale deleteria negazione di te. Ridi. Chissà in testa che nebbia che hai. Che nebbia che hai. Che nebbia che hai. Che nebbia che hai. Occhi belli, vattene via di qua, non provare ad incrociare il mio sguardo. Ti brucerò, oh, occhi belli. Il tuo posto è, il tuo posto è. Quella mia bacheca mentale che si chiama errori dell'umana natura, da non fare. Occhi belli. Si cambia un pensiero quando no, si è sicuri di sé, voluttuosamente immersa nella tua ipocrisia. Immagini di essere belli.